il pettirosso gigante. La storia è autentica, anche se sembra inverosimile. Un pettirosso si invaghì per l'appunto della Domenica Assunta, la quale era fidanzata con un bravo giovane di Pedavena. Quando vennero celebrate le nozze, l'infelice volatile, magnificato dall'impossibile amore, assunse all'improvviso dimensioni mastodontiche e con le gigantesche ali planò nella piazza centrale di Feltre all'arrivo del corteo. Dopodiché, tra lo sbigottimento degli astanti, afferrò dolcemente la giovane con le zampe e la trasse a volo verso il gruppo dolomitico del Cimonega, ripromettendosi forse di depositarla in qualche suo recondito abituro.